casa che anticipa l'estate e che mi strina un po'. Io ti sento passarmi nella schiena, la vita non è in rima per quello che ne so. Sento nel mezzo di una strofa un pezzo che era l'ofio e adesso non lo è più. Io ti sento, lo stomaco si chiude, il resto se la riempie.